Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori da Laura Bettini, una buona giornata a te Carlo, come va a casa? Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Laura, va bene, va benissimo in questa quarantena casalinga nazionale, direi che da qui in casa tutto bene. Benissimo, dal tuo osservatorio privilegiato, diciamo così, va bene? Esatto, brava. Come tutti i nostri ascoltatori che ci auguriamo stiano rispettando l'indicazione di restare a casa, noi staremo insieme per la prossima ora e mezza, cioè fino alle 10, ovviamente cercando di portarvi anche delle buone notizie e di regalarvi qualcosa, come sempre facciamo. 824 0024 è il numero verde da chiamare per indovinare il personaggio della settimana. Tra pochissimo vi daremo il primo indizio. Ovviamente non si vincono biglietti per il museo in questo periodo, si vincono libri di cui appunto abbiamo grande bisogno, no? Per così trascorrere più serenamente, anche imparando qualcosa, le giornate che trascorriamo in casa. Carlo, inizio io con l'indizio, che dici? Certo che sì, Laura. Carmelo Lauricella ha già messo la base per ricordarvi qual è appunto il gioco della settimana. È l'indovinello. Il primo indizio è un numero uno. Personaggio della settimana. Ricordo solo ai nostri ascoltatori che ovviamente il nostro personaggio, che può essere maschio, femmina, cosa, oggetto o avvenimento, deve avere una notizia legata avvenuta in questa settimana, perché ve la chiediamo. Esattamente, ve la chiediamo, ci dovete un po' argomentare perché appunto avete pensato a un certo personaggio, a un certo avvenimento, a una certa cosa. E l'altra questione fondamentale è ovviamente che sia della settimana, quindi non valgono personaggi che corrispondano a questo indizio, ma delle settimane scorse. Esattamente. 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri messaggi e WhatsApp. Io, che dire Carlo, non so, anche tu hai un consiglio di lettura come sempre hai la domenica? Sì, non proprio di lettura, perché guarda, sto leggendo tantissimo, sto leggendo dei saggi bellissimi, per esempio Homo Deus, breve storia del futuro di Harari, che probabilmente molti conoscono perché questo è il seguito dello strepitoso Sapiens, da animali a dei, entrambi editi Bompiani in una bellissima edizione con gli angoli smussati, tondi, e mi sto pure appassionando, non l'avrei mai detto Laura, ammetto, a questo libro che si intitola Democrazia Cristiana, il racconto di un partito, di Marco Follini, edito Sellervio, davvero più che sorprendente. Poi i saggi li inframmezzo con dei romanzi, perché non sempre è il momento giusto per un saggio, e sto leggendo Febbre di Jonathan Bazzi, Fandango Edizioni, e poi di Remo Rapino sto leggendo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, edito da Minimum Fax. Poi i titoli ovviamente li troverete sulle nostre pagine Facebook, anche sulla mia pagina personale. Ma come dicevo ieri, trovo che leggere non sia semplice in questo momento di incertezza, tensione e schifose notizie dal fronte medico. E so bene che non lo è affatto se vivi in 60 metri quadri, hai due figli piccoli lasciati a casa dalla scuola. Quindi oggi mi sembra più utile parlarvi dei film dello studio Ghibli o Ghibli, a seconda degli interpreti, sono giapponesi, è una casa di produzione di film d'animazione, sono piuttosto conosciuti, li potete trovare in DVD, on demand oppure su Netflix, dove da un mese circa sono sbarcati i primi titoli e presto sbarcheranno anche tutti gli altri. Questo piccolo studio d'animazione nasce nel 1985 con i registi Takahata e Miyazaki, che probabilmente conoscete, che stufi di creare solo cartoni animati a puntate, decidono di andarsene dalla casa di produzione in cui lavoravano per occuparsi di lungometraggi d'animazione con storie che riuscissero, queste sono parole loro, a immergere lo spettatore in profondità nella mente umana e a trasmettergli in modo realistico le gioie e i dolori della vita. Parlo della principessa Mononoke, per esempio, stupefacente avventura che racconta benissimo il rapporto fra uomini e animali, politica e natura, è un si può fare. Parlo di Pioggia di ricordi, parlo della Città incantata, che forse è il più famoso, l'Oscar come miglior film d'animazione nel 2003, è reputato da molti il più grande film d'animazione di sempre, inclusi tutti i film Disney. Parlo di Porco Rosso, che è ambientato in Italia e anche a Milano, parlo di Kiki, consegna a domicilio, insomma, tutti i film dello studio Ghibli. Ghibli. Ieri sera riguardavo la principessa Mononoke e devo ammettere che la traduzione in italiano è molto letterale, dunque a tratti non di primissima lettura, però ho pensato che non esiste occasione migliore di questa per vederlo, grandi e piccini assieme, dando magari qualche piccolo aiutino alla bisogna, e poi semmai lo riguarderanno da grandi, altrimenti tutti questi film si possono godere in lingua originale con i sottotitoli. Lo dico per gli adulti, perché i bimbi con i sottotitoli si annoiano. Però poi arriva un'età, te lo dico per esperienza proprio su questo genere di film, un'età diciamo attorno ai 12-14 in cui il fascino del giapponese c'è, e quindi sanno leggere velocemente, piace anche sentire la lingua originale, piace anche se non si capisce niente, allora... ovviamente, però mi dicono che le traduzioni italiane sono a volte sui cartoni, non sui film, ma a volte sono assolutamente poco gradevoli rispetto all'originale, che quindi sia meglio l'originale in sottofondo e la lettura dei sottotitoli. Carlo, non so se forse ti ho aperto, se ho sentito un rumore strano, però ecco, ok. Allora, io molto più ci invece... Sono, è vero, la questione delle traduzioni è vero, è molto combattuta, perché dipende come decidono di tradurli. Certi giapponesi decidono di tradurli appunto in maniera letterale, rischia di essere una lingua molto aulica e che è ostica per i bambini. Esatto. Allora, invece, un'altra delle attività che tanti stanno svolgendo in questi giorni, basta dare un'occhiata alle pagine Facebook, agli Instagram e così via, è quella di cucinare. Cucinare, ovviamente non tutti noi siamo degli esperti, però magari andiamo a recuperare delle ricette della tradizione. Allora noi abbiamo pensato di coinvolgere nei prossimi minuti un esperto di ricette della tradizione, ma soprattutto un esperto un po' specifico, diciamo, che ha fondato addirittura una confraternita specifica che si chiama Confraternita del Grasso. Questo perché ce lo racconterà lui, è Andrea Riboni, che è il titolare della locanda Solagna Slow Food di Vas in provincia di Belluno. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti chi ci sta ascoltando. Ebbene sì, la cosa è stata un po' bizzarra, perché in realtà mi sono messo a dieta e da lì mi è venuta l'idea di fondare una confraternita dedicata. Cos'era, l'astinenza? Oppure... Come? Era una questione di astinenza? Anche. No, l'idea nasce dal fatto di non demonizzare questo importante fattore della nostra alimentazione. E diciamo che il fine principale della confraternita del grasso non è semplice quello di elogiare e arricchire gli appetitosi cibi e preparazioni che facciamo sulla nostra tavola, ma deve essere un vero e proprio tavolo di lavoro e di ricerca sulle molteplici sfaccettature e prospettive di questo elemento. Pensiamo anche a noi veneti, come una grande tradizione degli insaccati e dei salami. Non credo ci sia una razza specifica dedicata appunto alla produzione del salame, ma vado a pensare ad esempio, non so, alla Cinzanese, al Nero dei Nebrodi, dove in queste altre regioni ci sono appunto queste razze autoctone, e noi in realtà di per sé non l'abbiamo, quindi mi piacerebbe anche approfondire una ricerca antropologica dedicata al mondo del grasso, quindi unire in questo circolo della cucina anche nutrizionisti, appassionati di storia, di cultura, di lifestyle intendo anche il norcino, quindi anche delle lavorazioni di carni. È appunto da partire dal nostro territorio, quindi vorrei unire con questa confraternita sia l'aspetto godereccio, ma anche quello della ricerca e della riflessione accademica. Dunque, ma lo scopo è quindi quale, però? Adesso quando fate mangiare. Tutto mangiare, sì, certo, ma mangiare bene, immagino, quindi capire. Il grasso è importante nella nostra alimentazione, l'importante è che sia di qualità. Nel pranzo di inaugurazione che abbiamo fatto il 16 febbraio alla Locanda Solagna, Raffaele Minute, che è il cuoco, lo chef appunto della locanda, ha saputo dare esalto all'immaginario di alcuni piatti di una pesantezza, vado a pensare ad esempio alla cervella di vitello fritta con le nocciole, crema di romanesco in agrodolce, però in realtà era leggerissima. L'anguilla, ad esempio, che è considerato un pesce molto grasso, però essendo che era un'anguilla di nassa, quindi un'anguilla pescata a mare, quindi non di allevamento, il suo grasso che ha sviluppato era un grasso buono, era un grasso genuino, è riuscito ad esaltare piatti molto delicati, pur mm-hmm. essendoci una grandissima ma presenza di grasso. Ma quando parlate di grasso? Ma quando parlate di grasso intendete solo il grasso animale, quindi noi ci immaginiamo il grasso del maiale, oppure appunto, come diceva, anche l'anguilla, oppure anche il burro, per esempio, oppure anche l'olio, visto che diceva che erano tutte cose fritte, o lo strutto, no. Non so. Assolutamente, si parla sia di grassi vegetali e grassi animali, ma questo è anche una riflessione. Ma non vi fate mancare niente? No, assolutamente no, mai, anzi. La riflessione però nasce anche dal fatto di come anche in altri settori, pensiamo anche a quello meccanico, no? Una volta si utilizzavano grassi animali invece oggi si utilizzano oli sintetici, quindi il grasso deve essere visto come un insieme olistico di tantissime discipline, anche quelle sportive, quindi non andiamo a pensare al fatto della realizzazione di formaggi senza grassi, sarebbe una cosa poco piacevole per il nostro palato, quindi la piacevolezza è il denominatore comune della tavola, ma anche della ricerca appunto storica, culturale, poetica, letteraria. Nella giornata di presentazione della confraternita abbiamo avuto il nostro Vincenzo Agostini, che è l'unico distillatore della provincia di Belluno, che ha fatto una ode al grasso, una bellissima poesia. Quindi la confraternita prefigge l'obiettivo di ritrovarsi attorno a un tavolo conviviale, ma nello stesso tempo si prefigge l'obiettivo di fare informazione sul grasso e nello stesso tempo anche di proporre qualcosa di alternativo, quindi quale può essere una poesia dedicata al grasso. Allora, Andrea Riboni, grazie. Ieri abbiamo fatto lode alla cipolla all'inizio della puntata, oggi abbiamo lode al grasso, quindi insomma siamo in tono poetico. Andrea Stiamo Riboni. Stiamo migliorando, direi. Il titolare, ricordo, della Locanda Solagna Slow Food di Vas in provincia di Belluno, li trovate ovviamente su internet, su Facebook, se volete approfondire. Grazie e buon lavoro. Posso solo chiedervi una cosa, volevo salutare tutti appunto i miei collaboratori e anche dire a chi aveva piacere poter partecipare a questa confraternita, si senta libero di contattarmi appunto tramite mail o sul sito internet e noi li accoglieremo tutti quanti. Grazie, grazie. Adesso abbiamo la viabilità, magnifico. Tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccolo qui il primo concorrente per l'indovinello, è Yuri, chiama dalla provincia di Avellino. Buongiorno. Buongiorno da Avellino città proprio. Ah, Avellino città. Benissimo, sì. Come state ad Avellino Buongiorno. Città? È tutto deserto. Questo dappertutto. Bene, allora chi è il personaggio della settimana che è numero uno? Sì, avrei pensato a Hamilton, il pilota della Formula 1, il quale è stato il primo a proporre di fermare appunto il circo della Formula 1. Effettivamente, cioè, ci stanno sia la spiegazione che la settimana, c'è tutto, vediamo cosa dice il giudice. Non è lui purtroppo, però l'idea era buona e la ringraziamo per averci chiamato, Yuri. Ok, grazie a voi. Grazie, ciao, grazie. Arrivederci. Grazie. Allora, un numero uno, tra poco daremo un altro indizio, ma tra poco dopo il prossimo ospite. Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. E con il prossimo ospite vogliamo così trasferirci un po' con il pensiero su altri pianeti, o meglio su un altro specifico pianeta che è il pianeta Marte, perché ci sono tante novità che sono arrivate nel corso di questi ultimi giorni da Marte, grazie ai dati che arrivano dalla missione InSight della NASA. Vogliamo un po' così fare un excursus su queste novità con Mario Di Sora, che è tra l'altro fondatore dell'osservatorio di Campo Catino. Buongiorno. Buongiorno Laura. Sì, Carlo, dici. Buongiorno, buongiorno. No, dicevo semplicemente che mi sembra, siccome arrivano delle notizie straordinarie, anche assolutamente da capire, e poi ci sembra anche un buon momento, perché insomma, se dovessero esserci dei problemi su questo pianeta, magari abbiamo un pianeta di riserva, ecco. Non lo so. È il famoso pianeta B. Che dice, professore? Ma purtroppo esatto. Il pianeta B, se esiste, esiste molto molto lontano da qui, quindi dobbiamo cercare di curare al massimo questo. Ma quanto ci vuole andare su Marte? Giusto, come ci chiediamo tutti. Marte ci vuole qualche mese, non è un problema il viaggio. Ma il problema è starci. Andare su altri, certo. Rimanerci, allestire tutta una serie di protezioni come quelle che ci stiamo, di cui ci premoniamo in questo periodo, magari per altri motivi, per le radiazioni ad esempio, e il territorio di Marte ovviamente andrebbe in un certo qual modo reso per alcuni aspetti vivibile come quello della Terra, no? Un processo di terraformazione, queste sono cose che si dicevano già negli anni 50. Ma allora quali sono le novità che abbiamo ricevuto da questi dati che arrivano? Appunto, ho letto ad esempio di un pianeta con terremoti, cioè un pianeta vivo, ecco, Sì, contrariamente a quello che si pensava a metà anni 70 con le sonde Viking, che sono le due prime sonde che sono arrivate sulla superficie di Marte e l'hanno studiato abbastanza bene, è un pianeta vivo sia dal punto di vista geologico, ma la cosa più importante forse è che c'è l'acqua. E l'acqua, l'acqua è vita, come sappiamo? L'acqua e la vita sono due cose, diciamo che l'acqua è una condizione, la presenza di acqua su un corpo celeste, su un pianeta, è condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo, però è certo che senza l'acqua non si sviluppa nemmeno in partenza, e quindi la presenza di acqua non soltanto diciamo in superficie, ma sono stati scoperti ad esempio dei laghi sotterranei. E tra l'altro questa scoperta è stata fatta con un radar montato che si chiama Marsis, che è montato sulla Mars Express, un radar di costruzione italiana, che ha scoperto appunto un bacino di acqua liquida, molto importante questo, di acqua liquida sotto la superficie di Marte. Scusi l'ignoranza, perché altrove è stata scoperta l'acqua sotto altre forme? Diciamo che nella parte superficiale, per effetto della temperatura, l'acqua è allo stato solido, sotto forma diciamo di ghiaccio, però acqua liquida consente una veicolazione ovviamente di eventuali forme di vita pure elementari più favorevole. Quindi, ecco, ma forme di vita sono state trovate? Organismi attualmente non si hanno riscontri oggettivi di forme di vita, è proprio per questo che le prossime missioni dovranno affinare il tiro su questa problematica e andare alla ricerca in modo appunto più mirato. Consideriamo che come ho detto prima, nel 76, quando le Viking 1 e Viking 2 conquistarono la superficie di Marte, la NASA dovette concludere allo stato degli atti di quel periodo, di quelle tecnologie scientifiche, che non c'era nemmeno acqua su Marte. E invece a distanza di 40 anni abbiamo visto che l'acqua c'è e nelle sue varie forme che noi siamo abituati a conoscere. Senta, lei è stato per tanti anni il presidente dell'Unione Astrofili Italiani, no? Quindi per lei questo è un amore, no? In questo momento in cui è confinato a casa, ha più tempo da dedicare a questa passione magari? Beh, sicuramente sì, perché si lavora di meno altrove. Non abbiamo il problema la mattina di doverci alzare troppo presto, e quindi possiamo la notte tutti quanti, ma invito anche tutti gli italiani a alzare gli occhi al cielo la sera per fare delle osservazioni e conoscere, non dico l'universo, però almeno queste stelle, questo firmamento che abbiamo così. Che cosa si vede in questo periodo? per noi diciamo che non siamo professionisti, siamo ovviamente. Nella fase finale della stagione invernale ci sono ancora tantissimi degli oggetti che possiamo vedere, diciamo alle 21 di sera abbiamo alta sulla nostra testa la costellazione di Orione, che è molto bella, e all'interno di Orione c'è la famosa nebulosa di Orione, che anche vista con un semplice binocolo, ovviamente in un cielo non affetto da troppo inquinamento luminoso, quindi lontano dall'illuminazione esterna, dà veramente una grande ma infatti le volevo chiedere, ma in questo momento c'è meno inquinamento luminoso, in questo momento in cui ci siamo sì, tutti diciamo fermati? Diciamo è una diminuzione apprezzabile, perché siccome molti esercizi commerciali sono chiusi, ristoranti, bar, e di conseguenza c'è una diminuzione nell'emissione luminosa, perché vengono spente le insegne pubblicitarie, che l'illuminazione certo. È ridotta ai livelli di sicurezza e non ai massimi certo. Livelli, l'ho potuto constatarle anche qui dove abito io, quindi c'è una diminuzione penso del 10-20% dell'inquinamento luminoso e proporzionalmente quindi anche dei consumi energetici. Senta, prima di salutarci, voi a Campocatino avete fatto un sacco di scoperte, tra l'altro lei ha un asteroide intitolato a lei, abbiamo letto. Sì, sì, questo asteroide si chiama... Disora proprio. Sì, si chiama Disora, è il 1990 VN11. Lei riesce a seguirlo oppure... Guardi, è così, si no, sa non che lo c'è. Riesco a seguire, le posso dire però che da quando è stato scoperto, dal 1998 è stato scoperto ad oggi, è stato seguito in ben 17.900 osservazioni dagli osservatori di tutto il mondo, come tanti altri asteroidi, perché questi una volta scoperti devono essere seguiti proprio per valutare se le loro orbite possono eventualmente intersecarsi con la Terra o essere potenzialmente pericolosi, come quello che si dovrebbe avvicinare a noi il 29 aprile, che in realtà non ha alcuna pericolosità perché passerà a 6 milioni di chilometri dalla Terra. Ecco, quindi lei ha già risposto alla nostra domanda. Questo è importante. Esatto, io ero già preoccupato, cioè intanto volevo sapere se sul suo asteroide lei avesse... L'abbiamo perso. No, io ci sono. No, lei no, c'è, ma Carlo invece abbiamo perso il... Esatto, anche noi non l'abbiamo più sentito. Comunque, lei ha questo figliolo che gira nei cieli, è molto bello che gli altri lo tengano d'occhio, noi la salutiamo in questo grazie. Momento. Grazie, buon grazie proseguimento. Buona giornata. Dunque abbiamo la possibilità di dire no, adesso dovete sapere che non ci potete chiamare in diretta, ci dispiace quelli che chiamano su WhatsApp, volevo dire che stasera però alle 21 l'inquinamento luminoso tornerà perché c'è un flash mob, lo leggiamo adesso, un ascoltatore ci ha mandato questo messaggio: tutti alle finestre per un minuto con luci, con torce illuminarie, lampadine, anche la torcia del telefonino, un grande gesto che farà vedere al mondo, o meglio dallo spazio, che l'Italia è viva, che noi siamo compatti e forti. Chi vuole quindi oggi alle 21. Carlo, so che ci sei di nuovo, ma ci salutiamo, vero? Torniamo con una serie di bellissime certo. Nuove interviste e notizie dopo GR24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E sono qui di nuovo, davanti a una bottiglia, seduto su una sedia, a stropicciarmi le ciglia, a raccontare a qualcuno che ho venduto la moto e che la sera prima ho beccato una tipa. Che paranoia! La voce è inconfondibile, quella di Francesco Baccini. Carlo, sei in collegamento? Ti abbiamo solido adesso? Certo che sì. Fantastico, secondo te? Stavo ascoltando. Chi ti ho portato? Chi ti ho portato? Lui in persona. Spero Baccini. Esattamente. Ovviamente anche lui in collegamento. Sarebbe bello averlo in studio, ma invece, vabbè, al telefono. Francesco Baccini, buongiorno. Dopo. Buongiorno, ciao a tutti. Da casa? Buongiorno. Sarebbe difficile oggi. Oggi sarebbe difficile se non impossibile. E allora... Diciamo impossibile. Però ti invitiamo per subito dopo. Accetto volentieri l'invito. Allora, Francesco Baccini è uscito con il singolo Paranoia in Lombardia by Night, accompagnato da un video della sua giornata tipo in clausura da coronavirus, no? Come tutti. Beh sì, ormai guarda, sono 2 settimane che sono chiuso in casa, esco giusto per comprare da mangiare, come nei film, quindi no, dove c'è la città deserta. Però è un'idea quello che hai detto, no? Come nei film, cioè forse dobbiamo viverla un po' con quello spirito lì, ovviamente sperando di stare sempre bene, sperando che i nostri cari stiano bene, pensando di vivere una situazione che si chiude, inizia e finisce. Sì, speriamo bene, perché ogni giorno sembra un bollettino di guerra. Io non guardo più le notizie, non sento più, non voglio più sapere niente, perché speriamo che sia un film Speriamo che sia un film e non una serie a puntate di quelle infinite che non finiscono mai. Se una serie a puntate siamo rovinati, speriamo che sia un film anche abbastanza corto, ecco. Ma è effettivamente una situazione quasi paradossale, perché a pensarla un mese fa uno non ci avrebbe creduto, no? Che saremmo stati tutti chiusi in casa. Dunque, sì, posso. Allora, quindi diciamo così, anch'io condivido il fatto di purtroppo non posso, perché per professione mi tocca ascoltare le notizie, però a un certo punto della giornata basta. Come dicevi, bisogna. Ma io sì, proprio sento le principali e poi via, perché sennò io poi sono un ipocondriaco, figurati. No, non è il momento giusto. Che mi sentivo la febbre delle sere, insomma, cioè, la febbre altissima, poi mi misuravo 35,9, cioè non arrivo neanche a 36, quindi cominci a farti dei film da solo, come in questo video che ho fatto. Praticamente la mia giornata tipo è: guardo film, leggo, sento musica, suono, passi la giornata come ai domiciliari. Per sì. Fortuna che ho 3 cani che almeno, come dire, mi fanno compagnia. Non rischio di prendere il coronavirus da loro, perché pare che i cani, come dire, sono esenti, speriamo. quindi ma li porti fuori i cani? Li porti fuori i cani o hai il giardino? No, io ho il giardino, poi qualche volta li porto anche fuori qui. Io abito in Brianza, diciamo, abito sull'Adda, dalla parte di Lecco, e quindi qualche volta mi avventuro giù lungo il fiume, dove non incontro praticamente nessuno, quindi è difficile beccarlo lì, ecco, perché non c'è nessuno, però poche volte. Beh, diciamo che negli ultimi giorni sono uscito giusto a comprare da mangiare, ecco. Io credo, ho visto, vabbè, ovviamente il video tuo è un video fatto a regola d'arte, però l'idea dei video, di postare i video sia da casa, così, per esempio le mie figlie ieri si sono fatte tutta una regia di un video che riguardava per l'appunto questa situazione che stanno vivendo. In realtà, da un certo punto di vista, questa situazione scatena la creatività. Ma assolutamente sì, perché è nella difficoltà che viene fuori la creatività, no? ma effettivamente, guarda, io a questo periodo ho dovuto rinviare 7 concerti. Li sto facendo online, praticamente faccio delle dirette da casa mia. Sono studiolo, quindi mi diverto a fare queste dirette, questi concerti estemporanei. Però questa è una cosa che già facevi prima, o sbaglio? No, io questo ce lo facevo anche prima, perché io sono un pazzo. Perché tu, scusami, lo dico ai nostri ascoltatori, perché è una particolarità secondo me molto interessante. Se non sbaglio, correggimi se sbaglio, facevi dei video, delle dirette da casa tua, e poi il giorno dopo ne cancellavi tutte le tracce. Quindi in qualche modo sfruttando la questione del social, ma poi negandola, dicendo però questa cosa qua è scomparsa. Perché secondo me, è giusto? Secondo me questa cosa, no, io faccio una diretta e poi... perché deve rimanere lì? È un po' come dire: vado al bar e parlo con gli amici, e non è che quello che ho scritto rimane scritto sui muri, così uno il giorno dopo viene. È una cosa estemporanea. Sarebbe terribile. Hai fatto l'esempio perfetto. Perché questa cosa dei social, tu ti metti lì, cominci a parlare, a raccontare, poi dici: ma perché lo devo lasciarla lì scritta? No? Come dire, è espresso, o lo prendi al volo, o se no. E siccome di notte mi collego ogni tanto dalla luna di notte, poi, e ormai lo sanno quelli che mi seguono, e quindi si mettono lì a aspettare, poveretti, li faccio stare le ore piccolissime. Però deve restare tra chi c'è, poi basta, anche gli altri. Anche perché io mi diverto a interagire con le persone, quindi nascono sempre delle cose, diciamo, interessanti. Per esempio, tra l'altro adesso si stanno più organizzando concerti, ormai bisogna rivedere tutto, no? Perché i concerti dal vivo non si possono fare in questo momento. Quindi vedo che anche i miei colleghi si cimentano in dirette online da casa. Il famoso è un concerto da camera, una volta si trova per la musica classica, adesso facciamo un concerto da camera per le altre camere, perché gli altri sono collegati da una camera, quindi è musica da camera. È musica, giustamente. Però tu hai già esperienza, quindi parti avanti, ecco, quindi già lì. Sì, perché io credo che questi mezzi, come dire, possono essere usati in mille modi. Di solito, per esempio, tanti miei clienti non lo fanno, oppure si fanno gestire la pagina da qualcuno, ci sono anche delle società che gestiscono. Io invece mi sono sempre divertito fin dall'inizio a gestirla personalmente, anche per dare un'impronta personale, no? E quindi sono anni che mi diverto a farle dirette a sorpresa, o a entrare e raccontare qualcosa. Mi diverte questa interazione. Grazie Francesco Baccini. Allora, ricordo Paranoia in Lombardia by Night, scritto tra l'altro ormai da un po' di tempo, ma è caduto a fagiolo, diciamo così. Beh, con la situazione. Perfetto. Io poi mi sono divertito a fare questo video col telefonino, ho fatto questo link up perché ovviamente non potevo chiamare qualcuno, e quindi mi sono ripreso da solo e poi mi sono divertito a montare. È venuto bene. Quindi la regia è tua. È tutto mio. È tutto tuo e direi che hai aspettato il momento migliore per farlo diventare virale. Ma guarda, quando sei a casa c'è il tempo, uno si ingegna e era un gioco, quindi mi sono divertito a riprendere una situazione di uno che sta a casa da solo, comincia a guardare film, poi si diverte magari a riprodurli come quando eri bambino che giocavi con i soldatini, e quindi mi sono divertito a riprendere il mio delirio notturno in casa da solo col bassotto. Grazie Francesco, buona giornata, buon proseguimento. Voi, aspettiamo il prossimo collegamento, cercheremo di partecipare anche noi. Allora, adesso do il benvenuto a una delle nostre ascoltatrici. Sì, buongiorno. Ornella da Milano, buongiorno. Buongiorno. Personaggio della settimana, secondo lei chi è? Ho pensato a un personaggio in linea con la trasmissione, cioè si può fare. Il primo paziente guarito dal coronavirus a Milano, il dermatologo Marzano. Primo medico guarito, vediamo un po' cosa ci dice. No. Non era lui. Comunque grazie per aver chiamato Carlo. Io credo che Ornella, alla prossima, a presto, grazie. Alla prossima, grazie. Carlo, diamo il secondo indizio forse. Che dici? Abbiamo detto finora. Mi sembra un'ottima idea. È un numero uno e ha pensato alla famiglia. Questo è il secondo indizio. E adesso la viabilità, intanto pensateci, 824 0024. Si può fare. One Express, il pallet espresso. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tra poco poco un ospite graditissimo, un graditissimo ritorno a Si può fare, ma soprattutto ci porterà una bellissima notizia, vero Carlo, che abbiamo scoperto ieri sera leggendo Facebook, perché Facebook a volte porta buone e sostanziose notizie. Carlo, ci una sei? Una storia stupenda. Una storia stupenda, sì, veramente. Ci sono assolutamente, una storia incredibile che, visto che parlavamo con Baccini di cancellare il giorno dopo, ecco, questa è una storia da non cancellare, direi una storia da incorniciare. Precisamente, il nostro ospite è Massimo Temporelli, eccolo, ci ha raggiunto, buongiorno Massimo. Ciao Laura, ciao Carlo. Allora, grande. Fisico, divulgatore, scrittore, imprenditore e anche in questo momento colui che ha messo in collegamento persone che sono riuscite a risolvere un problema. Io penso sia bellissimo quello che è successo e anche il risultato che sta dando. Tutto nasce nell'ospedale di Chiari, quindi siamo vicino a Brescia, quindi siamo in una zona particolarmente in emergenza. C'era necessità di una valvola, vero Massimo, per uno strumento di rianimazione. Questo è successo. E tu sei stato contattato dalla direttrice del giornale di Brescia, Nunzia Vallini, che avevi conosciuto in precedenza per questioni di divulgazione, di il lavoro che facciamo insieme anche a voi da qualche anno. Esatto. Raccontare come non solo i giovani, in questo caso sono due giovani, ma tutta l'Italia si sta e si dovrebbe trasformare in un paese digitale anche per la manifattura. E questa storia, con tutti i risvolti umani, drammatici, bellissimi che poi potremmo esprimere, racconta soprattutto che quelle cose che ci siamo detti per anni, noi insieme, quando abbiamo con Carlo, tu non c'eri ancora, ma facciamo finta che è come se fossi vicino a noi con lo spirito e col cuore, dicevamo, no, gli stampatori 3D diventeranno la professione del futuro. Ecco, oggi abbiamo la riprova. E ci prendevamo anche degli insulti. Sì. Prendevamo ti ricordi Massimo, ci prendevamo insulti, la gente diceva ma che cosa servono le stampanti 3D? State immaginando un mondo brutto. Scusami, non volevo interromperti, racconta bene la storia che è straordinaria. Sì, e invece grazie appunto a un network, a un giro di telefonate che poi fondamentalmente riguarda il territorio bresciano, quindi voglio dare tutto il merito a Cristian Fracassi e Alessandro Raimondi, che sono dei veri e propri eroi, perché tenete conto che oltre a fare questo lavoro tecnico, che comunque è di avanguardia, che facciamo in tanti per fortuna, ma che loro fanno sul loro territorio, hanno anche rischiato la loro vita, perché io non andrei banalmente a lavorare in una zona infetta, no? Cioè non è una cosa stupida, all'interno di un ospedale, accanto a chi fa questo, cioè chi è in questa fase delicata del coronavirus. Loro hanno appunto chiamati dopo mille giri di telefonate, abbiamo cercato Fab Lab locali, ho pensato anch'io dal mio laboratorio. Ma che cosa cercavate però, Massimo? Una valvola, un tubo Venturi tecnicamente si chiama, che è un pezzettino di plastica piuttosto semplice ma anche sofisticato, e lì sta la difficoltà, perché ha delle forme, delle geometrie, lo vedete sul mio sito, sul mio profilo Facebook o su quello di Cristian Fracassi. È un pezzettino di tubo. Ed era un tubo, era una valvola indispensabile affinché un macchinario per la rianimazione funzionasse. Sì, è un pezzo intercambiabile, quindi però ogni tot paziente, se non addirittura ogni paziente, va cambiato. Erano già in difficoltà da qualche ora, perché stavano già riutilizzando quelli vecchi, rilavandoli con l'ammoniaca, mi dicevano, ma portando dei problemi alla respirazione del paziente stesso, perché per quanto poi si possa pulire e filtrare, l'aria che arriva potrebbe essere contaminata dall'ammoniaca. Insomma, la questione era: riordiniamo questi pezzi di magazzino in Italia non ci sono. Abbiamo deciso, lì è stata lungimirante Nunzia Vallini, che con me ha seguito tutto l'iter di un progetto divulgativo nelle scuole, quindi lì si accese la lampadina e fa: ma perché non li stampiamo 3D? E da lì si è in moto la macchina, Cristian e Alessandro sono stati messi in contatto con l'ospedale, hanno preso le misure del pezzo, l'hanno ridisegnato, hanno stampato un prototipo in poche ore. E questo è successo, fate conto che mi ha chiamato Nunzia al mattino alle 8:30, alle 4:30 il pezzo era pronto, montato sulla macchina. E ieri hai potuto annunciare che il sistema sta funzionando, tra l'altro. Io ho perso la voce un po' di giorni di vita, perché comunque bilanciandomi sulla tecnologia, insieme a Cristian naturalmente, che è il professionista che l'ha fatto, ho detto che questa cosa aveva qualcosa di miracoloso. In realtà, come tutte le cose sperimentali, no, come, si chiama ricerca proprio perché devi cercare qualcosa che non esiste ancora. Invece ieri sera alle 19.30 mi ha chiamato Christian, hanno montato i primi 10 pezzi dopo aver fatto il test su uno e il pezzo funziona. Fatemi fare un inciso, so che il tempo è sempre tirando, però sappiamo tutti che non è il giusto modo di agire, perché poi sono stato attaccato da alcuni dicendo non è certificato, non c'è il marchio CE, sappiamo tutto, sanno sì, tutto. Sì. Sarebbe bello avere i pezzi originali, i pezzi originali non ci sono. L'unico modo che gli umani trovano davanti alle difficoltà di risolvere un problema è sbizzarrire la loro creatività. Ecco, questa storia racconta come gli umani risolverlo, è chiarissimo. Risolvono problemi con i mezzi che hanno, e credo che sia una delle storie più belle che questo coronavirus abbia regalato. Ci ha tolto un sacco di cose, ma ci ha regalato anche una serie di storie di umanità, di creatività, di empatia, no? Perché nessuno di questi certo. signori guadagna una lira, vanno perché credono che quello che stanno facendo aiuti qualcuno, ed è bellissimo. Ecco, io sono felice di essere stato molto vicino a questi signori e di averne di aver potuto ancora... certo di averli messi in contatto, di aver risolto almeno bello, in questo bello momento problema. Questo problema è emozionante. Ho visto che se ti hanno scritto dire... anche dall'estero dicendo, no, visto dalla Spagna, dal Messico, puoi condividere. Insomma, ecco, la cosa bella, sì, brava Laura, la cosa bella è che se questa cosa funzionasse e se ce ne fosse bisogno, può darsi, anche se credo che non sia così, che in alcuni ospedali questi pezzi ce li abbiano, non credo, ma se non fosse così, se non avessero i pezzi e ci fosse carenza, la cosa bellissima che potrebbe succedere creando un network internazionale via internet è trasferire il file con le istruzioni per la stampa a diversi paesi o a diverse città in Italia e permettere ai maker digitali locali, preparati come Christian, di stampare il pezzettino anche per quelle altre macchine. Ecco, questa sarebbe l'unione, no, di tutto quello che io amo, cioè tecnologia, umanità, globalizzazione, quella buona, quella che si aiuta l'un con l'altro. Ed è una storia di tecnologia che parte dal basso, parte da due ragazzi bresciani, parte dall'Italia, ma poi conquista il mondo. Quindi sarebbe davvero molto bello. Sperando invece che non serva a niente, che tutto spassi al più presto possibile. Certamente. Certamente. Grazie Massimo per questa storia. Grazie. Comunque il nome si può fare perfetto. Esatto. Si può fare. Esattamente. La trasmissione è giusta. Bisogna sforzarsi di fare e ci si può ingegnare anche. Insomma, grazie ancora Massimo Temporelli. Massimo, ti chiedo un'ultima cosa. Andrai sia pur virtualmente nei musei prossimamente, nelle prossime ore, potendo tirare un pochino il fiato? Sì, ci proverò, ho due figlie, tre nipoti in una casa in campagna che sabato e domenica sono sotto la mia giurisdizione, ma sì, i musei, ho lavorato 10 anni in un museo, sono luoghi da amare, da visitare. Sono in ottime mani, perdonami, perché Massimo Temporelli alla bisogna il museo se lo stampa in casa, certo, in 3D, certo. Con una stampante. No, volevo solamente aggiungere questa cosa, concordo con tutte le parole di Massimo e ammetto che mi sono emozionato perché sembrava veramente la chiusura di un cerchio aperto molti anni fa, parlando con Massimo di stampanti in 3D, con tutti i dubbi, con tutte anche le ironie che c'erano agli inizi, e improvvisamente vedere un'utilità così precisa, così specifica, perché certo che si potevano far arrivare i pezzi da un altro paese, ma ci avrebbero messo 4 giorni e lì ogni ora che passava erano vite umane precisamente che sarebbero state salvate o meno. Quindi dopo tanti anni che parliamo di stampa in 3D, diciamo, permettere ai maker di salvare il mondo mi sembra che sia stata una cosa veramente emozionante. Voglio ringraziare Massimo. Ringraziamo Cristian e Alessandro e tutti quelli che sicuramente in giro per il mondo usano la creatività per risolvere problemi, e immagino saranno veramente delle mascherine fatte in casa, cioè di tutto e di più. Ripeto, il coronavirus ci sta togliendo tantissimo, ma secondo me sta tirando anche fuori il nettare della nostra umanità, cioè quella la migliore, no? Pensate solo ai balconi che ho visto su internet, perché sono in campagna appunto, ma è proprio bellissimo il segnale che arriva da alcune persone, quindi teniamocelo caro e abbracciamolo, che è l'unica cosa che possiamo abbracciare, perché sono davvero cose importanti. Grazie. Grazie a voi. Grazie, io avevo portato Massimo Temporelli sul tema dei musei, musei chiusi, musei aperti, Carlo, no? C'è questo hashtag che gira proprio perché sia pure a casa possiamo visitare dei musei, e uno di questi è senz'altro il Museo Nazionale di Archeologia di Adria, la cui direttrice è Alberta Facchi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Laura, buongiorno. Ma voi non vi siete arresi, siete tra quelli che appunto, anzi, in questo momento proponete, ho visto addirittura anche delle elezioni. È chiaro che tante persone possono, non so, andare su internet e lo fanno già sempre per visitare gli Uffizi, gallerie famosissime, ma in questo momento anche musei più piccoli e anche musei come il vostro propongono non solo una visita ma anche delle lezioni, magari anche per gli studenti a casa potrebbe essere un'idea. Sì, assolutamente, tra l'altro sono lezioni che noi stiamo costruendo imparando noi stessi, abbiamo avuto il tempo per esempio di guardare accuratamente alcune vecchie foto, la prossima puntata di una serie video che sta emettendo il Museo di Adria scaturisce dall'aver avuto il tempo di guardare i particolari di alcune foto, quindi è una lezione per i ragazzi a casa. Noi speriamo di riuscire ad aprire una pagina parallela a quella del museo che si chiamerà Kids nei prossimi giorni, avremo tempo i prossimi giorni di pensarci, però stiamo imparando anche noi moltissimo, e mi fa piacere che tu abbia citato i piccoli musei, perché forse questa nel male, diciamo, di questa emergenza epidemia. Però i piccoli musei sono quei presidi del territorio. Il Museo Nazionale di Adria fa parte della Direzione Regionale Musei del Veneto, è un museo nazionale, ma nel territorio. E, non so, spero che comunque noi è da tanti anni che facciamo uno slogan, via dalla folla. Abbiamo anche dei musei a Venezia, fuori da Piazza San Marco. E stiamo cercando di fare degli itinerari diversi per i turisti, e via dalla folla era uno slogan anche per noi, quindi adesso un museo come quello di Adria, in questa città importantissima per, ha dato il nome al mare Adriatico, importantissima per l'età etrusca, l'età greca, che è la porta del Parco Naturale del Delta del Po, penso che verrà più capito, più usufruito alla riapertura, e noi ci stiamo preparando, insomma. Allora, resti un attimo in collegamento con noi, noi abbiamo una piccola pausa, rientriamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In collegamento con noi c'è sempre la direttrice del Museo Nazionale di Archeologia di Adria, Alberta Facchi. Carlo, avevi una domanda per la direttrice? Sì, certo. Buongiorno, direttrice. Mi incuriosiva una cosa. Volevo sapere se i video continuerete a farli dopo questa emergenza, e soprattutto se finita l'emergenza questa iniziativa, che io trovo straordinaria, di aprire musei, di mostrarli, di dare la possibilità a tutti anche a casa di poter entrare dentro nei musei senza muoversi da casa. Però mi chiedo se dopo, a fine emergenza, porterà più visitatori al museo. Allora, rispondo alla prima domanda. Noi continueremo con alcune delle rubriche che stiamo adesso aprendo. In questo periodo stiamo vedendo che le rubriche con contenuti di approfondimento, di schede, di catalogo, sono quelle che alla gente piacciono di più, anche se non hanno video, diciamo. Quindi quelle sicuramente le continueremo. Naturalmente non potremo poi ad apertura sostituiremo alcuni dei temi che adesso stiamo trattando in telelavoro e telematicamente, li sostituiremo con eventi veri e propri. Ecco allora che si arriva alla sua seconda domanda. Io sì, ho visto dalla risposta ai video e agli altri contenuti che ho postato, che la gente ha voglia di venire in museo, è stata incuriosita, i nostri follower sono del territorio, non soltanto della provincia di Rovigo ma un po' di tutto il Veneto, e si stanno incuriosendo veramente, Addirittura uno me l'ha proprio detto, bella iniziativa, vengo. Così dopo saremo numerosissimi. Sì. Grazie molte, dobbiamo molto salutarci bene. Perché oggi siamo andati un po' lunghi, ma la questione della stampante 3D ci sembrava una buona notizia da darvi. Un piccolo gancio, sì, per la stampante 3D. Ecco, noi abbiamo una mostra temporanea in questo momento in museo su di un personaggio che era cieco, nel senso che ha fatto da cecità del 1500. E abbiamo quindi accostato un percorso tattile alla mostra, fatto con stampante 3D naturalmente. Quindi visto le stampanti... grandi applicazioni che si possono avere anche nei musei. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. E allora dai musei adesso andiamo a vedere cosa si può fare in casa per fare ginnastica. In tanti vogliono uscire, continuano a chiedere, si può uscire, si può passeggiare, si può correre. In alcune città grandi come Milano i parchi, almeno quelli recintati, sono stati chiusi. Quelli recintati sono stati chiusi. Chi vive più in periferia come me c'ha la campagna vicina e quindi vive una situazione un po' diversa, però... ovviamente Fortunella. Quando piove siamo tutti in casa, sia quelli di campagna sia quelli di città, e quindi vediamo un po' cosa propone il CSI Milano, il comitato di Milano, in particolare Massimo Acchini, non ne becco una, sono troppo di corsa. Massimo Acchini ne è il presidente, buongiorno. Buongiorno e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, voi vi siete dati ovviamente Buongiorno. Da fare, il vostro mestiere è lo sport, ho visto ci sono tanti video, ci sono tante proposte per fare ginnastica indoor in questi giorni. Sì, il nostro mestiere in particolare è lo sport educativo, quello fatto dalle piccole società sportive d'oratorio, di quartiere, di periferia, e allora per aiutare queste piccole società sportive a tenere attivi i ragazzi, diciamo così, ci siamo inventati questi allenamenti da casa. Sono dei tutorial scaricabili dal sito del CSI Milano con esercizi molto semplici però divertenti. Tranquillizzo le mamme, sono esercizi che lasciano i lampadari, le suppelletti, tutto a posto, insomma, sostanzialmente. Però i ragazzi si possono divertire, fare attività a casa, ed è anche un modo molto bello per tenere in contatto l'allenatore con i suoi ragazzi. Allenatore e ragazzi hanno una relazione educativa. Ed è molto bello che con questo meccanismo l'allenatore manda il video ai ragazzi, i ragazzi si filmano, fanno il video mentre fanno l'esercizio, lo rimandano all'allenatore, è un modo per divertirsi, per fare allenamento in salotto, in cameretta, nel garage, ma anche per restare in contatto educativo con il proprio allenatore. Il che ovviamente però è sempre... Prego. No, scusami, dicevo, non so se ho visto anche altri video, sempre vostri, perché mi sembra che qualche lampadario si potrebbe anche, diciamo, scheggiare, perché si parla di palloni, ho visto dei video che si svolgono in palestra, bellissimi, tra l'altro col palloncino e anche il pallone insieme, che si possono fare in salotto, ma insomma, con delle complicazioni, o ho visto i video sbagliati? No, i video sono giusti, però i palloni utilizzati sono appunto o palloncini o palloni di spugna, tutte cose, come dire, assolutamente non pericolose. Poi la cosa bella è anche che tante società sportive a loro volta con i loro allenatori hanno generato nuovi video, per cui diciamo che questo meccanismo sta diventando un po' virale, e quindi chiaramente ci sono anche, certo, video generati dagli allenatori delle società sportive. Ovviamente è chiaro che magari chi ha la fortuna di avere un piccolo pezzettino di giardino sotto casa può fare esercizi anche, come dire, con attrezzi, con il pallone, un po' diversi, ma la cosa bella è pensare proprio a quei ragazzi che sono in appartamento, con appartamenti magari anche molto piccoli, e con quel bisogno di scaricare anche un po' di energia, di attività motoria. Ecco, questi video sono davvero molto divertenti, secondo me molto utili. Sì, poi tra l'altro lo dico anche da mamma, insomma, bisogna concedere qualcosa, mettiamo via qualche soprammobile e lasciamo che si giochi col palloncino, insomma, facciamo... Sì, hai ragionissimo. Dobbiamo convivere, secondo me dobbiamo convivere. Questo è l'appello, è giusto, è l'appello. Ogni famiglia lasci un lampadario ai propri figli, pazienza, esatto, uno lo possono rompere. Aggiungo una cosa secondo me molto simpatica, perché questi video prevedono anche poi spesso che la mamma, il papà, il fratello tirano una mano appunto per fare l'esercizio, no? Quindi generano anche un po' nella monotonia, diciamo così, di queste giornate in casa, anche un po' di divertente relazione in famiglia, perché prevedono il fatto che l'allenatore così, diciamo, diventa la mamma, il papà, il fratello, qualcuno che dà una mano appunto per realizzare gli esercizi. E quindi questa dai, è la parte fare. Più geniale. Anche qua si può fare. Cioè. È la parte più geniale, perché è veramente è la suddivisione della responsabilità. Cioè, ci hanno pensato quelli del CSI, hanno detto: se io metto la mamma che lancia il pallone, esatto, lei, dopo esatto. se si sbecca un lampadario, la colpa è divisa fra tutta la famiglia. E quindi in questo momento, però, abbiamo dato suggerimento alle mamme di non farsi coinvolgere. No, va bene. Comunque, qualcosa appunto dobbiamo concedere, qualcosa tra l'altro ci fa anche bene. Perché insomma un corpo in salute reagisce in maniera diversa poi anche a situazioni di stress o di malattia, no? Quindi Presidente, direi che diamoci un sì, po'... Direi che questo è l'aspetto che chiaramente è subito comprensibile. L'altro aspetto secondo me davvero importante è quel tema dello sport come relazione educativa, cioè non sottovaluto il fatto che questo meccanismo permetta ai ragazzi di restare in relazione con il loro allenatore, cioè di coltivare quella relazione educativa, quell'interesse, quella passione per lo sport, che non è solo risultati, classifiche, coppe, medaglie, molto ma molto di più, ed è quella capacità di aiutare davvero i ragazzi a crescere un po' nella vita. Tenere attivo questo meccanismo anche nelle condizioni che stiamo vivendo in questi giorni, secondo me lo abbiamo provato a fare con un po' di creatività, insomma sono video molto semplici, però secondo me è una cosa molto simpatica, molto carina, ma anche molto utile davvero per i ragazzi. Grazie molte, allora continueremo a seguirvi su internet, CSI, che è il Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano, ecco, lo spacciatore, diciamo, di questi video che vi aiuteranno anche a tenervi in forma, tenervi in relazione, mantenere i collegamenti appunto tra i ragazzi e gli allenatori di nello specifico del CSI Milano, ma in generale tra i ragazzi sì, e il resto del mondo. Sono video che possono scaricare tutti, quindi esatto, sono quindi tutti, non sono è assolutamente gratuiti, non è specifico, non bisogna necessariamente avere allenatori che quegli allenatori per poter fare i video. Assolutamente. Grazie molte, buon proseguimento. Grazie, buona giornata. E diamo la buona giornata. Grazie. Anche a Paola dalla provincia di Trento. Paola, ha no, chiamato. No, dalla provincia di Milano, ciao. Gravissimo ciao, errore, anche Edoardo anche Lavezzari. Provincia di Milano, da Milano città. Ma no. Va bene. Dai, comunque l'importante è che sia lei, e vediamo anche l'importante è che lei indovini, vediamo un po' che allora, cosa ci dice. Io ho pensato alla Dorothea Wierer, che ha fatto sta cosa meravigliosa di vincere tutto, la seconda campionato del mondo, ed è la prima sciatrice che ne vince due consecutivi di campionati del mondo. E poi ha fatto una dichiarazione adesso al vostro telegiornale che è stata deliziosa, l'avete sentita? No, ce la dica lei. Ha parlato dando coraggio a tutta l'Italia, dicendo che siamo forti, che insomma ha fatto un bel messaggio di incoraggiamento per la situazione attuale, ecco. Certo, è una bellissima idea, adesso vedremo un po' che cosa... Immaginavo, era troppo facile. Era troppo facile, forse anche perché è andata appena in onda, come lei ci ricordava. Ma non è vero. Il campionato nel mondo è questa settimana, di ieri o dell'altro ieri. Forse vabbè, di comunque ieri. Non è lei, però, comunque però, non è vabbè, lei. Insomma, l'abbiamo ricordata, cioè meritava una menzione. È verissimo. Ha un programma così bello come il vostro. Grazie molte. È bello avere ascoltatori mille. Come voi, che appunto sempre propositivi. Vedi, ad esempio, prima abbiamo parlato di stampanti 3D. C'è una signora che vorrebbe fare anche le mascherine con le stampanti 3D. Io non ho più Temporelli in collegamento, ma credo, signora, che non sia proprio possibile pensare alle mascherine. Però, insomma, ecco. Ma Poi sulle mascherine, se possiamo dire, sulle mascherine ci sono già molte persone, ovviamente stiamo parlando di quelle mascherine che alcuni dicono che non servono a niente, come ben sappiamo qualche cosa servono perché comunque si mettono davanti, ci sono molte persone che si stanno prodigando per produrle in maniera casalinga in casa con la macchina per cucire. Sì, è arrivato anche un altro messaggio, Carlo, no? Che ci diceva: ma io ho la macchina da cucire, se mi danno il materiale provvedo. Anche lì, insomma, va bene. Certo. Faremo da cercheremo di capire se è possibile. Esatto, che è di nuovo la questione anche che diceva Temporelli, perché poi dovrebbe anche girare il progetto, no? Perché quello non è che la stampante 3D abbia cambiato tutto, inventato niente di nuovo, è semplicemente che ci vuole il file, il progetto, che è come avere un progetto per come fare la mascherina anche con la macchina per cucire. Esatto. Enrico da Ferrara, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Allora, sentiamo un po' qual è la sua idea di personaggio della settimana. Io pensavo che fosse Sanchez il premier spagnolo, perché dicevate che è un numero uno e ha pensato alla famiglia e ha saputo che sua moglie è stata infettata di coronavirus. Sì, è vero, abbiamo saputo proprio questo e sappiamo anche che la Spagna sta vivendo la stessa situazione che stiamo vivendo noi, e sentiamo cosa ci dice il giudice. Non è neanche niente. Il premier Sanchez. Carlo, se sei d'accordo, io darei il terzo indizio. Enrico, grazie intanto per aver chiamato. Scusi, non certo la stavo salutando. Sì. Enrico, certo, Laura, sono d'accordissimo. Allora, il terzo indizio, vediamo se riusciamo negli ultimi minuti ad assegnare i nostri libri della settimana. Il coraggio è la sua forza. Quindi, ricapitolando, è un numero uno, ha pensato alla famiglia, il coraggio. Ha pensato alla famiglia. Il coraggio è la sua forza. Ok, abbiamo la viabilità, tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. Carlo, siamo arrivati al momento del premio. Questa settimana non vedo la tua danza, ma la stai compiendo nella tua solitudine? Certo che sì. Prometto di sì. Guarda, ero già con le mani alzate che stavo facendo il mio balletto e mi rendevo conto che lo facevo da solo nel salotto di casa mia, quindi sono felice che tu abbia in qualche modo percepito la mia danza. Sarà l'abitudine, no? Di vederti ogni domenica alzare le braccia tipo da Lisca, insomma così. Vabbè, comunque il momento del premio L'altro pianeta è ovviamente il premio che assegniamo settimanalmente a chi si distingue per operazioni salvaguardia dell'ambiente, di sostenibilità, e questa volta ci troviamo ad assegnarlo di nuovo un po' a un nostro amico e conoscente che è EcoTire. Buongiorno al presidente Enrico Ambrogio. Buongiorno a tutti. Allora, ci fa molto piacere ritrovarvi perché appunto la vostra azione di rimozione di pneumatici abbandonati continua in tutta Italia. Questa volta siete arrivati ad Alvito, provincia di Frosinone, 2000 pneumatici abbandonati. Ma è possibile che si trovino migliaia di pneumatici abbandonati in giro per l'Italia? Sicuramente se ne trovano, però vorrei dare una buona notizia, se ne trovano sempre meno per fortuna. Ah, quindi insomma si è un po' imparato che non vanno abbandonati, che ci sono dei consorzi che se ne occupano come il vostro specificamente, che non è che mangiate nessuno se vi consegnano dei rifiuti. Sicuramente, potrebbe essere utile per comprendere un pochettino qual è l'organizzazione e come andrebbe gestito il sistema, capire che cosa facciamo. Sì. Noi siamo un consorzio di circa 800 aziende che sostanzialmente raccoglie tanti pneumatici quanti vengono venduti in Italia. Nel nostro caso sono oltre 5 milioni all'anno e questi vengono raccolti gratuitamente, è importante dirlo, quindi gratuitamente dal gommista, che quindi non avrà costi al momento della consegna a noi, vengono inviati ad impianti di trattamento e vengono completamente riciclati. Questa è la nostra attività, lo facciamo da una decina d'anni oramai all'interno di una normativa sul recupero ambientale che è entrata in vigore nel 2011, E direi che i risultati si cominciano a vedere, in quanto non ce ne sono più troppi abbandonati nell'ambiente. Ok, questi pneumatici tra l'altro sono una risorsa, cioè si possono, no, utilizzare per fare dell'altro, quindi è molto importante che vengano correttamente conferiti per motivi ambientali, ma anche perché sono una risorsa. Sì, infatti del pneumatico si può recuperare tutto, ovviamente la gomma in granuli, che è la quantità, il materiale principale. Da questa noi siamo riusciti addirittura a riutilizzare della gomma in una nuova gomma. Quindi per la prima volta siamo riusciti ad impiegare il granulo che deriva dai pneumatici a fine vita in nuovi pneumatici. Siamo nella fase di test e di sperimentazione, però abbiamo sicuramente ottime prospettive. Gli altri materiali all'interno dei pneumatici sono delle fibre che anch'esse possono essere usate una volta triturate per materiali compositi. E poi ovviamente del metallo, che finisce nella filiera del metallo ben nota. Però noi ci siamo chiesti che cosa potevamo fare di più, oltre al nostro obbligo di legge, oltre alla nostra missione. E allora abbiamo provato a dare un contributo volontario, quindi una parte dei nostri avanzi di gestione vengono destinate a iniziative con associazioni ambientaliste. Da qui il progetto PFU0, PFU è l'acronimo di pneumatici fuori uso. Sì, noi abbiamo già familiarizzato con questo termine. Sì, ma è normale, gli altri magari no, ecco, certo. Esatto, noi un po' meno. Difatti noi lo diciamo, cerchiamo sempre di spiegarlo, diamo per scontato che sia chiaro, però speriamo che un giorno sempre più persone lo sappiano. E quindi con l'associazione ambientalista noi diamo il nostro contributo per avviarle al settore del riciclo, nella filiera del riciclo. Ed è chiaro che quindi abbiamo collaborazioni con varie associazioni. Questa ultima di Alvito è stato un caso particolarmente significativo. 2000 pneumatici che sono stati raccolti in una scarpata, erano lì da parecchi anni e siamo stati contattati, abbiamo deciso di aderire molto volentieri. Noi, una volta raccolte, grazie alla loro collaborazione, le abbiamo caricate sui mezzi ed inviate ad impianti di recupero. Sì, incredibile, avete dovuto coinvolgere, immagino, anche quasi degli alpinisti, degli speleologi, non lo so, dov'è che è, in una fossa, in una dolina carsica, a profondità di 100 metri, cioè proprio era una situazione anche difficile, diciamo, come recupero. Assolutamente sì, ed è stato un grandissimo lavoro di queste associazioni, ambientaliste, in questo caso ad Alvito, in provincia di Frosinone. E noi abbiamo fatto una piccola parte, in realtà noi abbiamo solo preso il container una volta che sono state caricate le gomme, quindi ci terrei a rivolgere un grandissimo ringraziamento a queste associazioni di volontariato, sia per l'ambiente che per altro, perché senza di loro ovviamente tutti questi progetti non sarebbero possibili. Senta, le voglio chiedere una cosa, perché il tempo poi corre e non riesco a farlo, invece vorrei che dare una risposta a un ascoltatore che, non so, per qualche motivo deve avere degli pneumatici che non sa dove conferire. Dice: le amministrazioni non me la ritirano, il gommista non me li ritira, che ci deve fare? Io non ho idea. Possibile. La filiera è molto chiara. Intanto bisognerebbe dire che nessuno di noi automobilisti a casa è in grado di staccarsi gli pneumatici e sostituire i nuovi con gli usati o gli invernali con gli estivi. Quindi si tratta probabilmente di pneumatici vecchi e quelle piccole quantità ancora residuali che magari abbiamo in cantina da qualche parte andrebbero conferite alla piazzola pubblica, alla piazzola comunale, perché oramai sono 10 anni che i pneumatici vengono ritirati gratuitamente dai gommisti, come dicevo prima, e quindi uno dei messaggi che noi diamo è: poiché il ritiro è gratuito, non c'è nessun motivo di abbandonare i pneumatici nell'ambiente. È gratuito per il cittadino ovviamente, ma anche per il gommista. Quindi bisogna che questo cittadino cambi gommista, ne trovi un altro, insomma, ecco. Sì, ha toccato un punto importante: il gommista è obbligato a ritirare gli pneumatici usati. E quindi questo mi sembra il consiglio da dare al nostro ascoltatore, esatto. Cercare una altrove. Domanda velocissima. Vai, che abbiamo molti ascoltatori, Carlo, non so se li vedi tu, esatto, in attesa. Sì. Ma volevo capire, siccome mi sembra bellissimo questo progetto da gomma a gomma, ovvero che si possono fare nuovi pneumatici adoperando il materiale o una parte del materiale dei vecchi pneumatici, mi chiedo se non si potrebbe rendere quasi obbligatorio che per produrre un nuovo pneumatico bisogna per forza usare parte o tutto il materiale del vecchio, di vecchi pneumatici. Questo è uno dei nostri auspici, sarebbe una grandissima notizia se ci fosse una normativa del genere. In realtà in Italia esiste già un quadro normativo che si chiama Green Procurement, quindi gli acquisti verdi, che impongono a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare una parte dei prodotti provenienti dal settore dell'economia circolare, quindi del verde. Il pneumatico, la gomma potrebbe essere sicuramente uno di questi. Siamo ancora all'inizio, però ci sono buone speranze che ciò succeda e sarebbe un'ottima idea. Grazie, grazie molte. Ottimo, si può fare. Si può fare. Grazie Enrico Ambrogio, che è il presidente di EcoTire, che conquista per la seconda volta il premio L'Altro Pianeta. Buon proseguimento, buon lavoro e intanto anche benvenuta alla nostra prossima ascoltatrice. Io direi Giovanna, proviamoci, andiamo velocissimo. Ci stanno due persone almeno. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Da Grosseto? Pronto? Sì, vada, ci dica. Io pensavo a Bill Gates. Bill Gates, secondo lei, personaggio della settimana, c'è qualcosa che le che cosa la fa pensare a Bill Gates? Ha lasciato la presidenza di Microsoft per dedicarsi alla famiglia, al volontariato, alla beneficenza in genere. Sentiamo cosa dice. Peccato, non era lui, ma ce la facciamo, vero Carlo? Peccato. Abbiamo un altro ascoltatore. Sì, certo che ce la facciamo. Volevo solo ricordare che Bill Gates ha anche detto nel 2015 che probabilmente sarebbe stato un virus a preoccupare il mondo. Pensavo fosse questa la notizia. Prego, all'ascoltatore. L'ascoltatore è Marco, buongiorno, ci chiama da Domodossola, buongiorno. Domodossola, buongiorno. Allora, secondo lei chi è il personaggio della settimana? Io ho pensato a Michela Moioli, che è una campionessa di snowboard, che questa settimana, dopo aver conseguito un nuovo titolo mondiale, in un'intervista, lei è originaria della provincia di Bergamo, ha fatto un saluto, un ricordo affettuoso di una sua nonna che in questo momento è alle prese con... Sentiamo perché mi dicono che dobbiamo chiudere. Giudice. Allora, chiudiamo in bellezza con Marco che vince, perché indovina, il personaggio della settimana è proprio Michela Moioli. Carlo, ci dobbiamo rapidamente salutare. Ci ritroviamo la settimana prossima. Certo. Allora, grazie, sì, signori, grazie a tutti coloro. Alle 8:30. A tutti coloro che hanno reso questa puntata possibile, corro verso la chiusura. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24. C'è GR24, alla prossima settimana.